Buonasera! Buonasera! Nel cervello umano sono racchiusi i più grandi misteri dell'universo. Eppure basta un non nulla per mandare in tilt questo delicatissimo organo. Ma come funziona il cervello? Noi di Cinico TV lo chiediamo ai fratelli? Abbate, Franco Abbate, mio fratello non c'è! Non c'è? No! Manca Rosolino? Sì! E dov'è? È al lavoro! Continua a coprirmi? Sì! Le fa piacere? Sì! Abbate! Dica! Che genere di lavoro? Sci di pesca! Sì? Sci di pesca! È un pescatore? Sì! Abbate! Dica! Sa di che cosa parleremo oggi? No! Parleremo del cervello umano? Sì! Le piace? Sì! Sveleremo come funziona? Sì! Abbate! Dica! Se Peppino è fratello di Giovanni e Giovanni è sposato con Teresa, Teresa, che cosa sarà per Peppino? Le rifaccio la domanda? Sì! Abbate! Dica! Se Peppino è fratello di Giovanni e Giovanni è sposato con Teresa, Teresa, che cosa verrà a Peppino? Marito! Abbate! Dica! Forse la telecamera la inibisce? Sì! Le blocca le funzioni del cervello? Sì! Mi anticipa? Sì! Non dovrebbe farlo? No! E perché lo fa? Boh! Abbate! Dica! Ricominciamo da capo? Sì! Se Peppino è fratello di Giovanni, mi segue? Sì! E Giovanni è sposato con Teresa, mi segue? Sì! Teresa, che grado di parentela avrà con Peppino? Abbate! Dica! Passiamo ad un altro esercizio? Sì! Un esercizio mnemonico? Sì! Lei sa che cosa vuol dire? No! Le interessa saperlo? Sì! Bene, faremo un giochino di memoria. È contento? Sì! Ascolti bene. E ripeta poi nella stessa successione le cifre che io adesso le dirò. Le impari a memoria. Ci siamo? Sì! Amici di Cinico TV, adesso vi dimostreremo come funziona questa splendida macchina. Che splendida macchina del cervello. Pronto, abbate? Sì! 5, 19, 11, 27, 38. Ripeta. 11! 11 cosa? Più lentamente? Sì! 5, 7, 25, 38, 56. In questo momento il cervello umano può ripetere? 5, 7, 25. Rifacciamo? Sì! 5, 7, 11, 15, 26! 5, 7, 11, 20, 26, 25! Vedete, amici di Cinico TV, basta un non nulla e questa splendida macchina che il cervello si inceppa. Ripetiamo? Sì! Più lentamente? Sì! È sicuro di farcela? Sì! 5, 7, 11, 26... 47 5 7 11 Vedete? Basta proprio un non nulla. Abbate! Dica! Lei, per esempio, si è mai chiesto: ma perché sono al mondo? Perché vivo? No! Non se l'è mai chiesto? No! È la prima volta che se lo chiede? Sì! Se lo chieda! Perché sono al mondo? Perché al mondo? Boh! Abbate! Dica! Il suo cervello comincia ad essere stanco? Sì! Non ce la fa più? No! Introduzione necessaria per una puntata d'emergenza. È grande emergenza, c'è una grande emergenza nell'aria. E ci sono tantissimi abate in giro. Sì. E puntata care dedicata... Care le mie bruschette, cari i miei bruscatori, sì. Cari nostri ascoltatori di Radio Wombat. Dobbiamo fare un cattolicissimo mea culpa stasera. Nonché un... chiedere scusa. Un antiacido come Malox o esatto. Giù di lì quando la puntata sarà conclusa. E un Jeffer dopo. Sì, tutto. Ho preso il gastroprotettore 2 ore fa per prepararmi a questa puntata. Ecco, prendetelo anche voi o comunque evitate di nutrirvi di cibi acidi. La mia migliore reazione è stata preparare dei pezzi musicali che tendessero alla caciara. Per dirla... per autodifesa, sì, per un meccanismo mio di autodifesa, ho bruscamente trashato un 4-5 MP3 perché non potevo fare altrimenti. Noi non sappiamo come dirvelo, ma questa chi sera... è stato attento dall'inizio però probabilmente ha fatto in tempo a captare. Qualcosa. La prima, dillo proprio. Tu, io non ho fegato quest'oggi per esprimermi ulteriormente. Mi sento allora, male, ho già il buco allo stomaco. Io sto cercando le parole. Insomma, quel la bile mi guasta. Sono già verde io. Quel piccolissimo frammento che avete sentito all'inizio riguarda una diciamo l'accoglienza che è stata riservata a Salvini un paio di settimane fa a Bologna, quando si è recato per la visita a tutto la sua, come dire, al suo pubblico. In realtà quello che sentirete è uno scontro diretto tra anti-leghisti, antifascisti, antirazzisti, antisessisti, eccetera, eccetera, e la controparte che fondamentalmente rappresenta oggi l'Italia, perché hanno votato, insomma... Questa controparte politica. Quindi la nostra puntata di oggi sarà dedicata all'analisi sociolinguistica del degenero leghista, dalle origini, quindi da Bossi, il suo precursore, il linguaggio della gente comune, vero e proprio, la tipologia salviniana e il suo vocabolario, ma più che vocabolario tratteremo un po' la genesi della sua, diciamo, chiamiamola così, capacità retorica, capacità nulla, retorica molta. I suoi termini tecnici. Esatto, il bestiario, sì. Il bestiario leghista questa sera. Esatto. Con l'amaro in bocca a questo punto vi faccio sentire l'estratto audio di tutto questo video che poi è stato pubblicato. Se siete in macchina, milioni fermatevi, di visualizzazioni, ecco, mettete a letto, sì, i bambini, sì, e aggrappatevi al divano. I contenuti di questo video possono creare scompensi gastroesofagei, grandi momenti di rabbia, deficit del piloro o piloro, anche, e degli sfinteri, sì. Sì. E anche tanta amarezza e un po' di senso di schifo generale. E secchezza alle fauci. E anche poca speranza nel prossimo, nel genere umano in generale. Che ormai è esaurita da un po'. E quindi, siccome noi siamo masochiste, vi faremo ascoltare questo estratto. Buon ascolto. Prima vedo gli occhi sbarrati, si vede che fa effetto. Io fatto il presupposto che per diventare meticchio una si vede che ti piace un nero. A Milano tutto Africa è. Lo so. Bologna, bravi, bravi! Chi è se i mongoloidi lì, va, va! Portata! Vai a vendere un negozio in spiaggia, che meglio! Io ho detto che sono a Bologna. A Bologna ho il diritto di manifestare come tutti, non siamo a Pontida. Puma negro! Puma negro! Esterno! Puma negro! Puma! Ecco di merda! Ecco adesso! In linea qua, dai! In linea, dai! Dai ragazzi, la linea! Io cantando! Io santa comunista, che i carabinieri allontanano quelli delle biblioteche, ma il tempo per farvi anche voi il vostro punto di vista ce l'avete avuto. Dico bene o dico giusto? Ecco, video tratto da, mi pare fosse fanpage.it, quindi non erano le Iene, non era nulla di giammai. E dico bene o dico giusto, Nenia? Dico che la situazione è questa, è inutile cercare di avere tante speranze, di coprirla con tanti Fronzoli. Ma su ragazzi, con e tante... Ci tengo a precisare ovviamente che durante questo video, cioè quello che voi non potevate vedere, ma nel video c'erano tanti di saluti fascisti, tutto... Le magliette con tutti i vari addobbi nazifascisti. Gesti, insomma, particolarmente sessisti nei confronti delle manifestanti. Sì, sì, un atteggiamento veramente squallido. Io vi consiglierei, se avete abbastanza fegato, di andarlo a vedere. Cercate Nella Piazza Leghista su YouTube oppure cercate Corteo Salvini Bologna. Che poi non c'è nemmeno tanto da dire perché... parla da sé. Ora, semplicemente il particolare del saluto romano, che chiaramente in radio non si può vedere, esatto. Però nel senso, però parla da sé, a prescindere dal montaggio, che chiaramente è stato fatto proprio per fare il confronto fra le due parti, però in generale parla da sé, quindi secondo me c'è anche poco da aggiungere. Era giusto per eventualmente dare un volto a queste voci, sia mai che li incontrate. No, visto giro. Soprattutto perché poi dicono di non essere fascisti, se chiaramente poi io ho affatto... Io non so, insomma, che idee abbiano le persone del no, fascismo. Cosa pensano che sia del fascismo, cosa sia il fascismo, allora chi lo sa. Però a parte ciò, io l'ho fatto, lo devo ammettere, È come quando un bambino ammette di essersi mangiato una caccola del naso. Io l'ho fatto, ho letto i commenti di questo video su YouTube. Lo fa, lo so, non lo dovevo fare, era chiaro. Lo so, non leggo mai i commenti dei video su YouTube, a meno che non siano stupidaggini per dire io cioè, però in questo caso purtroppo ci sono cascata perché volevo avere un po'... Non volevo avere il polso della situazione, forse ce l'ho già. E, non lo so, è stato un po' un istinto primordiale che mi ha portato a scorrere anche con lo sguardo i pallini degli account di chi mette i commenti. Guarda un po'. E l'80% sono tutti simboli nazifascisti. Quindi, tra l'altro, su una piattaforma come YouTube che ha da quasi 6 o 7 anni censurato qualsiasi forma di nudo, di omosessualità. Di nudo artistico, senso, soprattutto. Certo, ma questo come cioè, Facebook. Il nudo artistico. Sì, sì, no, ci sono censure, ma anche di, non so, baci tra persone dello stesso sesso, certo, per dire. E in realtà la grande macchina non è in grado di accorgersi dell'appartenenza, non direi nemmeno politica, perché è di più, di queste persone. Banalissima apologia di reato, nel senso che non se ne va nessuno. Che ne vogliono adesso, insomma, è in discussione anche all'apologia di fascismo, come sappiamo, però tanto è, tuttora è una legge attiva, di conseguenza... Quelli che avete sentito ora, per il 70%, non vogliamo essere legaliste, ma è così, sono fuori legge, possiamo dire tranquillamente, trasgressori di una norma. Ci si sciacqua di questa grande parolina, esatto. Vabbè. E che quindi dire? Ci siamo nel pieno di questa nuova trasmissione, guarda, però, e partiamo dagli albori soprattutto. Ma ragazzi, ma ve lo ricordate? Cara la mia bruschetta. Ma lo ricordate? Ehi, bruschettun! Uè, bruschettun, ma lo ricordate? Ercanotta, te lo ricordi quando si presentava con le canotte? Azzurra. Oh mamma! Io speravo sempre nella patacca di maionese. Sì, ma probabilmente c'era. Perché la Lega ce l'ha duro. Ma come dire, tutta gente comune, siccome la davvero tutta gente comune, infatti questo sarà proprio l'archetipo della comunicazione leghista, essendo tutti loro particolarmente impersonali perché sono dei fantocci, è evidente, sta nella, diciamo, nella base dei loro meccanismi quella di appropriarsi del pensiero, dei gesti di chi li segue. E chi li segue? Proprio la popolazione, diciamo, come dire, culturalmente arretrata, quella alla base, che è pronta, insomma, a seguire la scia. Per cui in realtà dietro la Lega, poi ora ve lo spiegheremo meglio, c'è un dare, un avere, è un meccanismo come il famoso concetto del tempo circolare. Anche ma io ti vorrei fermare un attimino, sì, carina, perché ho deciso che in questa puntata avremo anche noi il nostro sottofondo musicale. Oh, non ci saranno soltanto le altre trasmissioni, soprattutto... No, una puntata come questa merita. E allora mettiamolo, anche perché sì, sennò diventa tutto troppo drammatico. Eccolo. Questo te lo sei meritato. Grazie. E quindi con questo sottofondo In the Office di Brasile, di Terry Gilliam. Poco invasivo e poco invadente. È di Terry Gilliam, no? Sì, esatto. Non volevo dire. Che è stato ospite in un famoso cinema di Firenze la settimana Pensavo scorsa, da noi. No? Da noi in radio. Accorto, mannaggia. Già è vero, doveva passare è di qua. È passato in un famoso cinema di Firenze per fare una presentazione del suo Don Chisciotte. E se qualcuno capitasse nei cinemi in questi giorni, consiglio vivamente di andarlo a vedere. Si dice nei cinemi. Nei cinemi. Ma partiamo. Sì, siamo, dai, pronti? Certo. Sono già le 20:20. Se non ce la facciamo a finirla, stringeremo un pochettino, insomma, ma non vi ammorbiamo per due settimane di seguito questo tema. Non lo so, sai, ci devo pensare, perché poi è giusto. Non lo so, vediamo, deciderò io tra un pochino. Okay. Bene, allora, siccome appunto siamo perfettamente in democrazia. Sì. Bossi e, indovinate un po', il linguaggio della gente comune. Questo è l'archetipo comunicativo che sta alla base dei meccanismi relazionali, perché così sono, della Lega. Ovviamente avete capito che oggi usciremo un pochettino dalla prassi linguistica in sé per andare un po' a colpire su quella che è la sociolinguistica, diciamo così, forse anche un po' di PNL, vorrei... cara mia, cavi. Allora, questo frammento che ora andrò assieme alla Neni a parafrasare è preso da una semplicissima tesi di dottorato in sociologia dell'Università di Bologna, una roba abbastanza ruvida, direi, perché si parla di Bossi e del linguaggio della gente comune. Allora, possiamo dire che il tipo di comunicazione politica della Lega Nord ci rivela la presenza di una presa emotiva e un linguaggio volutamente poveri. Quindi presa emotiva e linguaggio che vengono dal basso. Povero inteso proprio come povertà di contenuti, di stilemi, di capacità, insomma, di argomentare. Il linguaggio di Bossi, stiamo parlando insomma di un periodo che va da quanto? Dalla fine degli anni 70 fino forse una decina d'anni fa, evviva all'ictus, ma forse, guarda, non posso nemmeno dire se viva o purtroppo. Il linguaggio di Bossi può fare tranquillamente a meno dei media o dei media per quanto riguarda il primo decennio del partito, perlomeno. Il senatore ha detto e ha sempre preferito comunicare direttamente in maniera personale con i propri militanti e ovviamente con l'elettorato, perché sono sinonimi, militante e elettorato nel loro caso. E come lo fa? Lo ha fatto, e questo viene ripreso da Salvini anche se in formula molto più ridotta, che non ha la fantasia del senatore. Di rara ispirazione mitologica. Così proprio. Ma chi sarà stato l'ippogrifo forse? Chissà. Gli epi. Slogan, a chi vi ricorda? Anche la canotta, insomma, comunque vabbè. Slogan, formule, motti ed epiteti aspri e crudi, ci dice il nostro amico dottorando. E la forma non mediata della sua comunicazione emerge non soltanto nei numerosi comizi di piazza e nei riti, parola perfetta, annuali, attraverso discorsi urlati e gesti provocatori, ma si trova anche sui muri della cosiddetta, all'epoca, che ora ovviamente non esiste più, non essendo mai esistita, Repubblica del Nord. Quindi manifesti politici, scritte cubitali, non so se vi ricordate, queste pennellate bianche con appunto frasi tipicamente padroni a casa nostra, che è rimasto, oppure quella del Vesuvio, robe terribili. Forza Vesuvio era, oramai ricordo. Una cosa veramente... Sto battendo le cuffie sul microfono, ma lo faccio apposta per farmi del male, anche acusticamente. E Bossi ha privilegiato, sempre per il sistema comunicativo, diciamo i vecchi sistemi. Ha utilizzato mezzi tradizionali, inventando un giornale di partito che inizialmente era Lombardia Autonomista, cioè roba da far rabbrividire. Ed è stato, diciamo, il principale strumento di propaganda che è andato dalla fine degli anni 70 a più o meno metà anni 80. Lombardia Autonomista, stiamo parlando di un accostamento tra uno stato in luogo, perché la Lombardia rappresenta uno stato in luogo, non si rivolge a nessun altro, molto probabilmente, è autonomista, lo dice di per sé, insomma. Tra l'altro è una parola molto particolare, autonomista, cioè è quasi come se fosse un divenire, no? Chiaro. Il giornale leghista poi si è diffuso, era un foglio, un volantino, era gratuito e questa era una cosa fondamentale, piazzato nei bar, nei luoghi di incontro, sui taxi, nelle panchine. Quindi vediamo come un meccanismo comunicativo di stampo verbale sia poi stato effettivamente fissato sulla carta senza aver bisogno inizialmente dei media. Partiamo dal basso. Tra l'altro anche in un formato a mo' di volantino, di foglio singolo, che comunque ne rendeva una fruibilità molto più veloce, pratica, quotidiana, da chiunque sapesse leggere, diciamo, poteva essere afferrato in qualche modo, guardato, sì, e ne facevi un po' parte. Riguardava proprio poi la sfera di... Uno studio, sì, cioè geniale per dire ai tempi comunque... Per il livello a cui si dovevano rivolgere è stato, sì, La mossa era, che, sì, sì. È l'unica cosa che potevano fare. Beh, loro inizialmente avevano bisogno di identificazione, nel senso che avevano bisogno di far sì che le persone si identificassero a loro e viceversa. Chiaro. E quindi questi fogli avevano una doppia funzione: informare, cercare simpatizzanti, creare anzi anche la linea politica e poi appunto questa identificazione tra i militanti stessi. Quindi abbiamo un interno, un fra e un esterno. Io ti farei fare una pausa e parlerei di linguaggio colto, così come abbiamo fatto finora. Oh, yes. E te ne porto un notevole rappresentante che negli anni si è fatto strada in questa tra i poeti, giusto? Tra i grandi poeti, perché la lirica è qui che scatta. Oh. Vediamo un po', sentiamo anzi. Si è mangiato la banana con due salsicce e o parmigiano. E molto si innovasi, se tu te fai una limonata, con tre cucchiai di cetrata, sorrida la giornata, ad ed id o. Prima che tu riesca a capire cosa stava dicendo l'omino. Non mi... Il leone di... come si chiamava? Lernia. Leone di Lernia. E questo era il leone di Lernia con te, sì, mangiate la banana. Tutto a tema, perché lo sapete bene, no? Noi abbiniamo sempre degli ottimi pezzi alle ottime discussioni. Esatto. E ricordiamo chi magari si è collegato ora. E no, infatti io dicevo ricordiamo... visto che niente a caso, chi si è appena collegato, non siamo impazziti, ma stiamo facendo un percorso parallelo tra musica, che appunto oggi c'era, cosa c'era oggi? L'inaugurazione del maggio fiorentino, e noi vi facciamo sentire popò di musica, e dall'altro versante parliamo dei l'inaugurazione del gaggio, dei luminari del gaggio, del gaggio, gaggio giorendino, fiorentino. Del gaggio giorendino. Stavamo parlando di Lega Nord e di meccanismi comunicativi che appartengono alla Lega Nord, in particolare alla genesi del Senatur. Quindi abbiamo parlato dei mezzi propagandistici, del sistema comunicativo primordiale di questi troglo. Troglo è venuta così. Dei trogloditi. E il tuo sistema sinaptico che ha preso possesso di te. Avendo sì, un po' ha di avuto deficit. La meglio, ha avuto la meglio lui. Sta avendo un po' di problemi. Sì. Insomma, che dire, che la Lega si distacca sia per la scelta degli strumenti di comunicazione, sia per il contenuto della comunicazione stessa, dall'impiego di mezzi tradizionali di comunicazione. Non comunica con altri giornali, non comunica sui media, e questo determina un netto scarto con gli altri partiti e di conseguenza una sorta di fiducia, crea quel famoso meccanismo di fiducia tra gli sfiduciati. Questo è elementare. E la peculiarità della comunicazione politica del Senatur è proprio nell'assenza di questo medium televisivo, che all'epoca effettivamente, stiamo parlando fine 70, seconda metà 80, era abbastanza insomma forte, preponderante. E per quanto riguarda invece la forma, Bossi utilizza, come tutti sanno, un linguaggio piuttosto dialettale. E come Leone di Vernia. Esatto. Vedi? Abbiamo, la Nene ha scelto un pezzo in particolare, insomma abbiamo creato la scaletta ed è riuscita a trovare il match, proprio l'abbinamento perfetto. E un linguaggio fuori dagli schemi politici, fuori dalle righe, perché proprio soltanto il linguaggio dialettale consente al Senatur e a, ovviamente a chi, al suo entourage, di esprimere realmente, sentite un po', le quotidiane pulsioni biologiche liberate dal conformismo comportamentale, ragazzi, quindi un'etichetta e uscire dalle sue regole, dalla buona educazione. Il finto rivoluzionario, quindi il fino all'epoca il politico effettivamente ha sempre puntato la sua comunicazione sulla pacatezza e sul controllo, no? Quasi come fosse un diktat professionale. E ora invece il turpiloquio, perché di turpiloquio si parla, perché quando uno dice la Lega ce l'ha duro, effettivamente quello è. E quindi insomma il turpiloquio permette in maniera molto immediata di sgravare il fardello delle convenzioni e soprattutto delle spiegazioni dovute, come se si andasse dritto al nocciolo della questione, senza andarci. È un meccanismo questo che oggigiorno è veramente perpetrato dall'arrogante di turno, no? Nel senso, non so relazionarmi con te, non so parlare, così ma è. Io comunque mi pongo così in maniera così dura, in maniera che tu non possa avere un confronto con me. Per qualsiasi motivo, perché ti stai sfavando, insomma, perché hai paura o perché molto semplicemente non ti va. E a me non va, di conseguenza, di darti un confronto adeguato. Ecco. E quindi questo è. E che succede oggi? Sono passati degli anni. Cosa abbiamo adesso? Che fa Matteo? Gli è venuto lo scarabaccino e è arrivato Matteone. L'altro Matteo, Matteone. Sì, perché uno era Matteino, l'altro è Matteone. Matteone, no? Matteone, sì, allora, sì, Matteone. Per chi ha Facebook? Ecco. Io vi consiglio di seguire la pagina Carbopapero 3000, con la K. Che è una pagina di meme, insomma. Okay. Cioè, io premetto, Facebook lo uso solo esclusivamente per scopi ludici, pornografici, sì, di questo, certo, tipo. E c'era una vignetta bellissima. Quest'estate Salvini, tanto per rimanere proprio forti delle loro convinzioni di immedesimarsi con le fasce proprio più, come dire, veraci della popolazione, è andato in una pescheria mentre era in vacanza con la sua bella. Oh sì, ho capito. E che cosa è successo? Propaganda, pubblicità della pescheria. Salvini si fa riprendere con un cellulare a petto nudo. Mentre ricorda qualcuno. Ha in mano. Ha in mano un piatto di pesce. Carvo Papero 3000 ha fatto una vignetta paurosa, bellissima, frame di Salvini che sta per parlare, quindi ha le guance gonfie come se stesse per vomitare. Dilata l'immagine quasi come se fosse, non so, stile tubo catodico che non funziona benissimo. E la vignetta cita: Elisa, ho rifatto ancora quel sogno, guidavo il paese completamente nudo. Bellissima. Questo per dire che comunque, insomma, se le cerca, ma le trova anche. Sì. E quindi, ecco, Salvini è, diciamo, il detentore della stessa impostazione comunicativa da taverna del predecessore. Ostenta il figlio, il figlio ribelle, ma è pur sempre il figlio. Proprio in pectore, proprio il figlio prediletto. Anche se in realtà sapevo che all'interno del carroccio non era proprio così. Perché comunque prima dell'arrivo di Salvini c'è stato Maroni. Ecco, c'è stato Borghezio, ragazzi, ma dove la mettiamo Borghezio? Fortunatamente, siccome abbiamo soltanto un'ora scarsa di tempo per fare la puntata, abbiamo purtroppo dovuto limare questi gioielli. Tagliare, chissà, magari un domani vi daremo altre perle. Un poco alla volta però, poco perché alla volta, sono un po' casionevole e allora non posso fare tutto insieme. Ma allora, noi avevamo previsto un pezzo successivamente, però volendolo potremmo mettere anche ora, così facciamo un bel discorso unico. Sì, perché unico. Anche questo poi ha a che fare con la raffinatezza del linguaggio sociopolitico, culturale e tutto ragazzi, quello che ha a che fare con questa puntata. Questo è il ballo del qua qua e di un papero che sa fare solo qua qua qua più qua qua qua. Mamma papero papà con le mani fa qua qua e una piuma vola già di qua e di là. Le ginocchia piega un po', poi scodinzola così, batti forte alle tue mani e fai qua qua. Con un salto vai più là, con le ali torna qua, ma che grande novità di qua. Qua qua, con mio papero che sa fare solo qua qua qua più qua qua qua. Forza tutti qui con me, a braccetto 3x3, attenzione si farà un gran qua qua. Se tu stai di fronte a me, io lo ballo insieme a te, e se un bacio volerà che male fa. Ma chi il papero non fa, che figura che farà, di sicuro sembrerà un baccalà. E di un papero che sa fare solo qua qua qua più qua qua qua. Con le ali vai più in là, come un salto torna qua, fai la mossa che ti va, ma fai qua qua. Questo è il ballo del qua qua che continua e non si sa se un bel giorno finirà di far qua qua. Tutto il mondo ormai lo sa che la moda è questa qua, batti forte le tue mani, fai qua. Sul crescendo del ballo del qua qua, salutiamo la Romina. Nuovo giro, nuova corsa, signore e signori. La Romina inserire Power. Il nuovo gettone, prego. E la corsa riprende a tutto sprint parlando del mitico, solo e unico, grandissimo Matteone. Oddio Elisa, ho rifatto di nuovo quel sogno, guidavo il paese completamente nudo. Dicevamo, impostazione da taverna, come riconoscerlo? Impostazione da taverna, uso ostentato di parole rozze, ipersemplificate, questa è una cosa gravissima. L'evoluzione del linguaggio, la grandissima facoltà di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, quindi la facoltà compositiva del linguaggio, creare parole anteponendo, componendo, viene completamente smembrata da questi trogloditi. E sono parole anche irridenti, decisamente goliardiche, se insomma così vogliamo dire, che si fanno gioco di argomenti piuttosto complessi e sinceramente drammatici, soprattutto dal punto di vista della pregnanza umana. L'odissea dei migranti sui gommoni diventa una pacchia, è una crociera, no? Quindi eccolo il vocabolario. Come invece l'olio di ricino che veniva fatto ingoiare agli antifascisti era semplicemente una salutare purga. Saviano vive sotto scorta da più di 10 anni perché è braccato dalla camorra, è uno croccone, questo insomma non ho per dirne una delle tante, no? E invece gli oppositori di Mussolini erano stati spediti al confino, ma secondo Salvini erano in vacanza. Quindi ci sono delle analogie abbastanza forti, cioè nel senso si attengono a una scelta consapevole di concentrare il linguaggio per buona parte. Pesca dal passato, ma cerca di darsi un'impronta rivoluzionaria, no? Un po' come aveva fatto anche Bossi. E tutto questo, no? Insomma, sul motto del noi siamo popolo perché parliamo come il popolo. Ok. Insomma, che dire, che fa Salvini? Adatta il linguaggio al suo pubblico. Contenitore vuoto. Sto iniziando a vedere bianco, mi sta uscendo il sangue dalle orecchie, mi sento malissimo. La nenia ha un rivolo di sangue. Sto proprio male. Andiamo avanti, presto che è quasi finita questa puntata, su! Salvini e Di Maio rappresentano due esempi effettivamente abbastanza, insomma, sono i più attuali di tutti su quella che riguarda la comunicazione politica oggi, perché arrivano al punto, non usano giri di parole, e tarano tutto sul destinatario, non usano il famoso politichese che ormai è decaduto più o meno da quando Berlusconi non governa più, nel senso da... Anche un pochino prima. Un pochino forse, prima. C'era qualcuno comunque tipo Tremonti, il politichese usava. Vabbè, sì. Ma stiamo parlando insomma di... Era più netto lo schieramento. Comunque per chi lo usava, chi laurea. No. Chiaro. Poi insomma, butta via. E funziona quindi tutto questo, il linguaggio della strada, un linguaggio che è adatto alla persona che alla sera si sbracca sul divano a guardare la TV e si aspetta un linguaggio condiviso che diventa per lui comprensibile nell'immediato, meccanismo di immedesimazione, che è fondamentale ed è la prima cosa che insegnano generalmente quando si fa un corso di PNL, quindi per cercare di comunicare in maniera efficace ed essere ascoltati. E lo stesso vale anche per i comizi in piazza. Il leitmotiv è... Esatto. E siate come chi volete conquistare. Così. Date un pezzetto di discorso alla volta, come se fosse un puzzle, quindi fermatevi, fate le pause, usate concetti brevi, parole, pillole di idee da dare in pasto alle persone che vi stanno ascoltando. Create degli slogan... E se volete poi fomentare quel senso di appartenenza che era già stato creato dal papà Bossi, usate appunto un motto personale, tipo prima gli italiani, insomma queste cose decisamente... Che funziona sempre. Davvero molto molto efficace, soprattutto su Melanenio. Sì. E questo è appunto un esempio lampante perché penso sia il fondamento dell'85% dei discorsi che fa Salvini. Non so. Quello è... E c'era anche una diretta su Facebook, qui sulla scaletta avevo detto che avrei trovato il link, era abbastanza, come dire, lampante, ma non... No, io non me la sono sentita di mettere anche lui in diretta, no, onestamente, infatti, non... ma anche tanto basta. Alla fine... Per oggi diciamo farà? Che le idee ce le abbiamo chiare, esatto, una cosa alla volta, grazie. E questo video dimostrava palesemente come utilizzare elementi di strategia, è una strategia retorica piuttosto forte che è focalizzata su alcuni punti particolari, gli amici, i nemici, i valori, come la difesa dei confini e lo stop all'immigrazione. In particolar modo Amici e Nemici è effettivamente una tipologia di ingaggio retorico. Meno la lirica cortese a questi livelli. Davvero, ragazzi, c'è cioè, nemmeno manca la contessa. Una roba allucinante. Ma visto che abbiamo parlato di padre e figlio, ci vuole un pezzo. Questo ti tocca. Bello, bello, bello. Avanti un altro. Una mia composizione dal titolo Non correre papà. Centoquaranta all'ora vado via, il cielo si fa scuro nella sera, premo l'acceleratore senza paura, non mi fermo nemmeno all'autogrill. Non correre papà, non correre papà, la mamma è morta già sull'autostrada. Non correre papà, non correre papà, la mamma è morta già sull'autostrada. 150 all'ora nella notte, son partito da Roma alle 21, da casello a casello 5 ore, arrivo a casa prima delle 3. Con rimorchio un furgoncino, sorpasso un'Alfa Sud metallizzata. Oddio, c'è il guardrail così vicino. La curva, freno, sbando e vado giù. Hai capito? I papà che si spiaccicano. Piccolo monito, non correte, caro, cari amici leghisti, non correte. Oppure, non c'è fretta. Se volete. Oppure, esatto, se vi va. D'altronde ognuno è libero di fare quello che vuole. Sì, esatto, noi non siamo nessuno per impedirlo. Questa puntata piena di odio dell'Accademia... della Brusca, ormai ho delle crisi di identità. Sì, stavi per dire Accademia della Crusca. Della Scrusca. Della Grusta. Lo so. 4 ottobre, ore 20:48. In diretta. In diretta, e poi anche un saluto agli amici che ci ascolteranno in replica il sabato e la domenica. Un saluto ai nuovi amici, alle nuove trasmissioni. Sì, è partita tantissime. Finalmente la nuova trasmissione del martedì, che però ancora non trovo in podcast e io, ahimè, non sono riuscita ad ascoltarla io in diretta. L'ho sentita quasi in diretta. E quindi aspettiamo fiduciosi questo nuovo podcast. E ne sentiremo delle belle. So chi è l'ha ascoltata e chi era anche qui in diretta contento. A fare compagnia. Sì, entusiasta. Abbiamo della, testimonianze della dirette. Nuova trasmissione, la pre-nuova, la ex nuova di Radio Contadova, la grande. Esatto. Devo dire, sì, sono tutti bravissimi. Adoro la dama. La dama è proprio stupenda, bravissima, mi piace da morire. Sì. Sono stati veramente un ottimo team. Bravissimi. Ci piace anche Radio Contado, ci piace tutta Radio Wombat. Non dimentichiamoci delle trasmissioni che sono ancora in vacanza ma che ripartiranno. non dimentichiamoci di ascoltare sempre la radio nostra preferita, Radio Womat, in streaming, nonché una tantum, anche un podcast di ripasso, esatto, va scaricato, va ascoltato e messo in qualche aggeggio tecnologico per quando magari siamo su in montagna e non abbiamo linea nel campo. Vi manchiamo e allora voi potete ascoltare tutto. Ricordiamo postawombat@insiberia.net nel caso ci vogliate scrivere qualcosa di positivo, perché diteci chiaramente le ingiurie votato. Non le accettiamo. Diteci che avete votato. No, non lo voglio sapere. E poi facebook.com radio-wombat-firenze, twitter.com/radio-wombat-fi e il sito wombat.noblogs.org, dal quale probabilmente ci state ascoltando, esatto, nonché la nostra frequenza AM 1359, dalla quale ci potete ascoltare in determinate zone di Firenze, anche se ripristinata, ora funziona alla grande, sì, con quel classico effettone da Radio M che ci piace tanto. Perché siamo vintage. Ovviamente. E che dire, velocissima una carrellata dei prossimi appuntamenti, sì, non sono aggiornatissima, ahimè, però vi posso dire magari che stasera al Next Emerson c'è un concerto dei Nuovi Rumori con diversi gruppi, scusate, davvero non vi posso dire di più, però se andate nel sito del Next Emerson troverete le varie informazioni. Sabato pomeriggio in Polveriera, presentazione di Mastodon, che questo appunto come si disse forse anche già la volta scorsa, sì, un tipo il nuovo rivale di Facebook, però un amico della comunicazione, non un gran nemico, esatto, come lo è Facebook. E poi abbiamo sabato prossimo sempre a Next Emerson con cena di compleanno e presentazione del libro famoso dell'impronunciabile con cena, e poi a seguire gruppi. Ci sono i polemica. C'è polemica. questa bisogna dirla per forza. Ci sono i polemica. È inevitabile. Ex Sabò, o meno, sì, Hilary, esatto, ed ex Hilary, Sabò, sì, e nella sua bella nuova formazione. Sono molto molto belli. Sarà un gran bel concertone, sì. E venerdì 19, sabato 20 invece il compleanno della svolta, nonché il compleanno del Next Emerson, sempre perché dura due fine settimana di fila. Manco i matrimoni indiani. Hai capito? Poi sicuramente ci sono altre cose bellissime in giro, purtroppo non sono aggiornata perché arrivo il giovedì sempre molto in ritardo e non ho tempo di fare questa lista della spesa, degli aggiornamenti, degli eventi su Firenze, ma sono sicura che le altre trasmissioni lo fanno, quindi non posso far altro che pubblicizzare le altre trasmissioni che già lo fanno, esatto, spesso per l'appunto Fuoco alle Polveri ha questo incarico, si s'accolla questo incarico, sono bravissimi anche loro, quindi riescono a fare tutto, tra cui anche elencare gli appuntamenti della settimana. Riascoltate il podcast, esatto, di Fuoco alle Polveri, perché penso le repliche siano concluse oggi forse. Oggi pomeriggio c'era l'ultima loro replica, quindi un bel podcast, e sicuramente per restare aggiornati, ne sentirete, se no, delle belle. Forse 8 Hertz dopo di noi ci dirà qualcosa di più. Dopo di noi inizia 8 Hertz, quindi anche lui sicuramente avrà, esatto, da dirci qualcos'altro, altrimenti cercate voi. Esatto. Quindi amici, vediamoci in giro. E a proposito di amici, direi che la puntata si può chiudere con, molto brevemente, Amici e Nemici, che sono due vertici proprio del meccanismo comunicativo salviniano. Molto brevemente, amici sono seguaci, elettori, sostenitori. Loro si chiamano così e hanno sempre nelle comunicacioni social di Salvini, non oso definirlo altrimenti, lo chiamo per cognome, la A maiuscola. Buonanotte amici, se sei dentro io sono dentro. Grazie per la vostra fiducia, amici. Spesso, avendo un cuore di burro, Salvini si lascia andare anche a ti amo e so che avrò bisogno di te. Amici, finalmente, che giornata lunga, ora pizza. Quindi questo che cos'è? Populismo. Proprio, cioè, immaginatevi, non so, se Andreotti fosse ancora vivo, per dirne uno a caso, cioè, e avesse Twitter e vi dicesse che si sta mangiando la pizza. Sarebbe anche un po' difficile da credere, perché torna nella cripta. Tante persone coinvolte in questa puntata sono morte o stanno molto male, guarda. Ma guarda, chissà come sta Matteo. No, vi ricordiamo, voi non ci potete vedere, ma io e la Nenia siamo perennemente vestite di nero, abbiamo spesso lo smalto nero e non lo potete sapere, ma noi abbiamo dei superpoteri. E la cosa proprio più bella di tutte è questo tweet. Mi volete indagare? Indagatemi. Certo. Ma anche il proctologo ti indaga in questa maniera. Mi volete processare? Processatemi. Mi volete arrestare? Arrestatemi. Io non sono solo. Solatemi. Se mi arrestano, mi venite a trovare, amici. Che problema qua? Che problema ha con i pronomi? Non mi sembra il suo maggior problema. Infatti. E poi arrivano i nemici. La taglio, la faccio proprio corta. I buonisti. Buongiorno a tutti, buonisti inclusi. Buonista è una parola molto usata, una categoria di ingenui, le anime belle della nostra era. Sono anche rosiconi, cosiddetti bitter haters, anche che hanno seguito una dieta costante di Malox fin dalle prime lezioni. Io la nenia, praticamente. Insomma, ecco. E nei tweet, questa parola, soprattutto buonista, viene usata come un'aggressione ed è veramente presente senza soluzione di continuità. E che dire, basta, insomma, per ora. Diciamo anche che, vabbè, dai, l'ultima cosa, che Salvini cerca di dare anche delle perle, no, di educazione contadina proprio, neanche siberiana. Contadina nel senso che si rifà, non il contadino di oggi, ma una contadinità che non esiste, che si rifà ai vecchi proprio metodi educativi della famiglia patriarcale, con probabilmente 15 componenti del 1890. Se mio figlio si rivolgesse così ad un'altra persona, due sbelle non gliele toglierebbe nessuno. Cresci bene, ragazzi, l'educazione arriverà, spero, minaccia. Tutto questo di risposta a un tweet dove un neo maggiorenne gli ha detto: coglione, sei la vergogna dell'Italia. E poi dopo botta e risposta, perché ovviamente il confronto e soprattutto la strategia della tensione comunicativa Salvini la padroneggia in maniera abbastanza buona, e quindi c'è sempre botta e risposta. Ho fatto male? Chiede. Ma la domanda da papà è ovviamente retorica. Vi ricordiamo che Salvini ha 3 figli. Poi vabbè, potremmo parlare di buonsenso, che è veramente uno dei diciamo delle ancore comunicative che utilizza, però vediamo magari se la prossima settimana, visto che ormai il tempo stringe ed è tiranno, un po' come Salvini, e è dalla nostra parte, perché in realtà siamo solo a metà delle cose che vi vorremmo raccontare. Ci sono tantissime cose che ancora la Nina vorrebbe raccontarvi, ma io invece non vedo l'ora di andare a vomitare e quindi dirò che la puntata è conclusa così. Che ne dici? Sentenziamo, è boom, finita. Boom. Martellino, la puntata è finita, mi devi soltanto dire se vuoi un pezzo vero, un pezzo bello, sì, un pezzo cazzuto, oppure un pezzo divertente. No. Io vorrei il pezzo cazzuto per questo finale, vorrei un pezzo bello per sciacquarci il cervello, il cuore, soprattutto la bocca, da tutto quello che abbiamo detto. Noi ragazzi vi chiediamo di nuovo scusa, ma non sono stravolta stesso da questa puntata, perché ho fatto fatica a prepararla, a starci dietro, cioè fatica nel senso emotivamente cuore. Parlando. E quindi sì, forse ci meritiamo una chiusura con un pezzo musicale bello. Poi la settimana prossima per se darci un attimo da qua. Sì. Fate le orecchie alla pagina, sì. E giovedì prossimo alle 20 noi saremo ancora qui. In replica sabato e domenica, lo ripetiamo. Sabato, domenica giovedì mattina alle 10, sì. E sabato alle 15. Esatto, se non il contrario, chissà, non ricorderò mai. No. Ma non so. Sì. Domenica comunque alle 15, sabato alle 10. Cara, ci sbagliamo sempre. Sarà bene mettersi in replica nella stessa ora. Sarà a questo bene punto scriverlo sulla manina. Sono sicura. Paganelli. Domenica alle 15 e sabato alle 10, perché sbagliai la volta scorsa. Sbagliando si impara. Sì, esatto. Chissà se me lo ricorderò la prossima volta. Ok. Dunque, vi salutiamo. Vi rimandiamo a tutto quello che vi abbiamo già detto: le altre trasmissioni, le registrazioni, podcast, le repliche, eccetera, eccetera. Dopo ci sarà 8R. Esatto. Dopodiché la serata del Wombat continua con repliche, musica varie ed eventuali fino a domani mattina. Seguiteci in streaming, vi vogliamo tanto bene. Noi scusateci, sì, per questa trasmissione, però ogni tanto ci sta. E un bel buonanotte, amici. Buonanotte con la maiuscola. Ah. perché è grande, amici. Addio. Un bacio a tutti. Generazione che è corrotta, che è malata, che va spazzata via. Una bella botta, una bella rivoluzione. Rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. Yeah, signor K. Yeah, Plastic Kento. 1-2-1-2. Yeah, questo è rap guerriglia. Questa cosa m'appartiene già da troppo tempo. Chi è del giro sa chi sono, sa che le appartengo. Io continuo a dare molto più di ciò che prendo. Io ci metto la scintilla, poi l'incendio. E ovunque vada sono di casa, ho la matricola brasa. In ogni porto dove ti porto, porto la mia saga. Porto il verbo in strada, non lo tieni a bada. Tra vite da gatti, vite da matti, via da torche. No, infatti volevo specificare questa cosa, sì. Me ne sono resa conto dopo. Ora, questa è stata una trasmissione delirante, ma io ho usato un termine che non avrei, che non ho mai usato in vita mia, non avrei mai usato in un contesto come questo, tantomeno parlando di un pezzo musicale come questo. E io, secondo me, questo tipo di ambientazione sociolinguistica mi influenza negativamente. Io mi faccio prendere troppo dalle cose brutte e mi faccio traviare. Esatto. E quindi ho usato la parola cazzuto, che è una parola che non uso mai in vita mia. 100 volte sul quaderno della non brusca, devi usare. Cazzuto non va usato. mi scuso e veramente sono mortificata. Siamo, perché io ho ripetuto a ruota come un pappagallo. È stato terribile. Me ne pento tantissimo, scusate. Ciao ciao. Andiamo in ginocchio sui ceci, ciao. Cenere sul capo. E con i DJ, manifestazioni, assemblee, picchetti e cortei. La mia gente lotta sempre, 7 giorni a settimana. Magazzino 47 a scatta su una Porci Paciana. Acrovax, Adomu, Lambrete, Cantiere. Leon Cavallo, Forte, Prenestino. In ogni quartiere Genova, C8 e quel fottuto mestiere. Finanzino, poliziotto, di Gotto, carabiniere. Mai un passo indietro, con Kento e signor K. Non cediamo manco un metro, col cazzo che si scappa. Un occhio al tuo domani, un presente fra i più tristi. Ieri partigiani, oggi antifascisti. Non è Kento, rap e sample. Porto il sud sopra ogni traccia. Parli di carta moneta, ma il tuo testa è carta straccia. Sto con le signor K, plasta e gira e poi l'accende. Siamo il nuovo tricolore, sì, ma senza bianco e verde. Porto musica e rivolta finché i tempi cambieranno. Sto coi fuochi nella notte dei migranti di Rosano. Mi concentro sul respiro mentre osservo l'obiettivo. Spezzo il ponte sullo stretto con ogni pezzo che scrivo. Ogni strofa che compongo parla in fondo del reale. Giro il mondo ma mantengo stesso accento dialettale. Rimango militante, brigante, Carmine Croco. La mia gente ormai non piange, la mia gente lotta il doppio. Fratelli ritrovati in mezzo a troppi che si perdono. Non siamo più distanti da Reggio Calabria, Bergamo. Fratelli ritrovati sono bussole e aquiloni. Nella mano della vita busso a coppe da bastoni.